sono Adamo, tu sei Eva, sono il tuo serpente. Mi sembravi così vera e troppo familiare. Eh già, sogni Adamo, sogni d'Eva, e tu non sei Giulia. Da vicino niente è vero. Il mistero di Giulia, che non è più Giulia. Che pacco, siamo noi.